show, baby. Hope all you people taking down all your pictures, cause we gonna be playing some of that bounce off the wall music, baby. See you later, alligator. Well, I saw my baby walking with another man today. Well, I saw my baby walking with another man today. Allora amici di Radio Cerrano Web, sono le ore 23:33 minuti primi, come ampiamente preannunciato su tutti i nostri socials, inizia il programma ideato da Vince Butterfly, i 45 giri che hanno cambiato la mia vita. Vince, buonasera e benvenuto a Radio Cerrano. Grazie Carlo. Ti correggo un attimo, sono le 20 e 34. 34, no, perché avevi detto le 23. Ah, scusa, sono un po' emozionato. Un piccolo dettaglio, però noi siccome siamo sì, abbastanza precisi e soprattutto ligi a quelli che sono gli orari. Poi tu, Vincenzo, sei proprio metodico su queste cose, anche su come imposti la playlist, su come me la prepari, su come la vuoi, su come la scrivi anche. Sei ma molto... sì, ma queste sono le prerogative importanti, perché quando idealizzi una scaletta soprattutto gli dai una come dire un senso e soprattutto gli dai la possibilità all'ascoltatore di fare un'escursione attraverso gli anni delle pubblicazioni di questi 45 giri, che poi non è che io li ho sentiti negli anni che sono usciti, li abbiamo ascoltati un po' qualche anno dopo attraverso il jukebox, poi dirò anche attraverso altre situazioni e condizioni, ma soprattutto ci tengo sempre a dare un senso molto molto metodico e soprattutto cerco di intervallare quelli che sono quei brani un po' più rock a quelli un po' più sentimentali e quelli che veramente poi hanno determinato non solo la mia la mia sensazione, la mia crescita culturale nell'ambito della musica, ma soprattutto hanno determinati momenti straordinari di quello che era quel periodo che io ho vissuto. Ma senti, ma qui manca una persona. Eh sì, che è successo? Abbiamo perso Carlo Butterbloom, che lui è volato in Midi, straordinari. Lui però ha detto che ci seguiva, ci avrebbe seguito. Io spero di sì, almeno che lui ci lanciasse un segnale, un messaggio, sarebbe la cosa straordinaria, perché ci fa capire che questa radio si ascolta anche in, mi pare che lui sia andato in Vietnam e Thailandia, adesso non so di preciso perché Carlo dice, però dopo svia. Capito? Sgattaiola. Sì. E Carlo è così, è esuberante anche nelle previsioni. Bene, possiamo iniziare con il primo brano in programma, possiamo lanciarlo, Vince? Sì, questa sera iniziamo col grande Buddy Holly, un altro musicista sfortunato ma che ha lasciato una traccia indelebile di sé, grande chitarrista e soprattutto grande innovatore. Buddy Holly, Early in the Morning. Gonna miss me early in the morning, one of these days. Oh yeah, well you're gonna want me early in the morning when I'm away. Hey, hey, don't you know? Yes, you'll be sorry for the times I cry. You'll be sorry for the time you lied. Well, you're gonna miss early me in the early in the morning, one of these days. Early in the morning. Oh yeah, early in the morning. Well, you know what? Allora, Vincenzo, abbiamo ascoltato il primo brano per quest'oggi, Early in the Morning di Buddy Holly. Cosa ci puoi dire a proposito? Ma niente, io volevo darti un'impressione straordinaria, perché vedo il tuo lavoro nella gestione di questo programma e mi rendo conto che tu non è che hai due mani, due braccia, tu hai 100 mani e 100 braccia. Grazie, Vincenzo. Anzi, 200 mani e 100 braccia, perché fai tantissime cose su questo computer e poi mixi, fai tutto quello che c'è. Insomma, da fare. Insomma, sono a 360 gradi. Sì, Vince. Ma questa è la, diciamo, è la, come dire, la passione, perché se non ci fosse la passione sicuramente non lo faresti questa è vero, radio. È vero, hai ragione, Vince. Gestita solamente da te. Niente, Buddy Holly è stato un grande della musica, un precursore del rock and roll, soprattutto perché lui poi ha avuto quella sfortuna di, diciamo, di perire in quell'aereo dove erano anche altri. È vero, in quell'aereo artisti. C'erano anche Richie Valens. Sì, Richie Valens, lui è quello che portava poi, che guidava, diciamo, era il pilota dell'aereo. Addirittura. Perché, sì, sì, è lui che purtroppo, diciamo, portava l'aereo e ha incontrato quella grande bufera che poi effettivamente ha portato un po' una disgrazia talmente grande alla musica rock. Buddy Holly rimane nella coscienza generale di chi ha amato questo genere. Ti dico un'altra cosa, Carlo. Sì, perché ci confondiamo con mio fratello. Sì, Carlo. Io risentendo questi brani, perché diciamo ce l'ho sempre dentro di me, però risentendoli mi rendo conto che questi brani sono ancora attuali, sono di una freschezza unica, come questo brano che andiamo adesso a sentire. Questo è un brano che io mi ricordo ascoltavamo sempre nel jukebox. Poi ti racconterò una storia del jukebox, come succedeva. Intanto ascoltiamo questo brano che è veramente uno straordinario. Allora, siamo tornati in diretta, sono le ore 20:44. Sì, rigorosamente in diretta da Radio Cerrano Web con Vince Butterfly e Carlo Micheli. Vince questa sera sta proponendo una selezione veramente fantastica di quelli che sono stati un po' i 45 giri della sua vita, che hanno cambiato la sua vita, anche perché ricordo che Vince, oltre ad essere stato il patron del famosissimo Green Hills Blues Festival di Atri, è stato ed è tuttora un musicista molto apprezzato in loco. Vincenzo, puoi tracciare una differenza tra, diciamo, la musica leggera di allora e quella di oggi? Quali sono le sostanziali particolarità, peculiarità, cosa è cambiato? Ma allora c'erano delle canzoni che sinceramente determinavano un periodo, come queste canzoni che abbiamo ascoltato, le prime due, sia Buddy Holly che Polanka. È chiaro che oggi la canzone deve avere un successo immediato, come dire, perché deve essere poi, diciamo, superata da un'altra canzone. Il mercato stesso che induce proprio questa velocità nelle canzoni. Magari ci saranno anche belle canzoni, ma non c'è mai il tempo per ascoltarle. Invece prima queste canzoni che venivano date un po' alla radio, che noi poi ascoltavamo un po' di straforo lì al jukebox, e, diciamo, erano canzoni che duravano quasi anni, e c'era quella di familiarizzarla, addirittura di imparare anche il testo. Qualcuno imparava anche il testo, e mi ricordo un fatto straordinario, che quando ascoltavamo queste canzoni lì al jukebox, siccome poi la particolarità di queste canzoni era che duravano poco, 2 minuti e jukebox, che erano gli Wurlitzer, diciamo. Sì, vabbè, il jukebox, il classico Wurlitzer. Ma poi i 45 giri dell'epoca duravano talmente, erano brevi, che non facevi nemmeno in tempo a gustarlo, che già finivano. Allora noi lì ci mettevamo lì, chi metteva 10 lire, chi 20 lire, e ricominciavamo un'altra volta la colletta, per ascoltare di nuovo la canzone, e ci innamoravamo di queste canzoni che diciamo poi diventavano un po' il leitmotiv della nostra ecco, vita. Negli anni 50, diciamo negli anni 60, che sono un pochettino i tuoi anni, credo. Sì. L'approvvigionamento della musica, del disco in sé per sé, come avveniva? Tu che sei stato, oltretutto, che hai avuto anche un grandissimo e bellissimo negozio di dischi, fornitissimo, qui ad Atri. Ma allora c'era la radio, che in certo qual modo chi aveva la fortuna di averla, come l'avevo io, e aveva l'opportunità di ascoltare molta musica. E poi c'erano i jukebox. Ad Atri c'erano 2 o 3 bar che avevano il jukebox, e c'erano questi jukebox che ci facevano, anche i stessi padroni dei bar ci facevano accedere. Ma io mi permetto di ricordarti anche una figura particolare di quegli anni, perché io abitavo in Piazza Duomo, ero un ragazzino, e quindi spesso nelle feste, nei mercati, vedevo una 124 Sport rossa, adesso, con un signore che metteva il mangiadischi nel portabagagli, dietro il portabagagli, dietro la coda, e vendeva i dischi. Una figura, diciamo così, non estemporanea, insomma, che quei tempi andava pure. Ma allora, vedi Carlo, allora era tutto quasi possibile, perché non c'erano le incombenze fiscali, non c'erano questi permessi. Quello che arrivava, come dici, come ricordi tu, questa 124, era precisamente una 850 Sport. Ecco, vedi un po', insomma. E erano queste persone che magari estemporaneamente arrivavano ad Atri e raccoglievano anche il consenso. Ma anche perché c'era un mercato, voglio dire, a quei tempi si vendevano i vinili, si vendevano i dischi. Ma si vendevano i 45 giri, che poi costavano proprio pochissimo. Io mi ricordo uno dei primi negozi ad Atri, c'era Mimì Mucianesi, il grande Mimì, che è stato un pioniere in tutto. Nella radio, nella televisione, lui è stato un grande pioniere di Atri, e soprattutto va ricordato Mimì per la sua parsimonia, per la sua intelligenza e soprattutto per la sua generosità. E soprattutto perché lui anche è stato importante anche per tutti noi, perché ha dato un input a questa città sulla, che è stata sempre sul pezzo, diciamo così, ma per sì, quanto riguarda le telecomunicazioni. Ma soprattutto perché Mimì ha sempre avuto un negozio di musica, di dischi, di elettronica, dove lui vendeva radio, radioregistratori, cioè radio giradischi. E proprio l'altro giorno la figlia Sonia mi ha fatto vedere una radio con sopra il giradischi, che gliel'ha portato un vecchio cliente di Mimì. Dice: sai, dovrei disfarmene, mi dispiace, ti fa piacere che tu l'abbia tu questo ricordo. Ecco, io poi ti dico un'altra cosa, che mio padre era grande amico di Mimì e comprava sempre queste radio da Mimì, e poi Mimì era uno che assisteva, uno che in certo qual modo non ti lasciava mai da solo. Ecco, Mimì era anche una persona che riusciva a seguire il cliente, cosa che oggi quando ti succede qualcosa in casa che tu devi magari inevitabilmente ti si rompe qualcosa, sì. Dice il tecnico ti dice: guarda, è meglio buttarla che aggiustarla, perché se lo vai a comprare costa di meno. Allora Vince, io ti rubo qualche secondo perché è giunto anche il momento di salutare tutti i nostri amici, i nostri affezionados che ti seguono, che ci seguono anche su Facebook. Vi ricordiamo che per ascoltare proprio l'audio integrale, l'audio completo, potete digitare www.radiocerrano.net. Noi abbiamo messo un link sulla pagina Facebook in diretta e ascoltare integralmente tutto quello che diciamo. Ricordiamo che vogliamo salutare Pasquale che ci sta seguendo, poi Marcello ed Eros. È giunto anche il momento di passare al prossimo brano. Vince, lo vuoi annunciare? Sì, questo è un brano dei Champs, The Much Tequila, però questo poi voglio raccontare un particolare straordinario di questo brano. Allora, Carlo, io volevo parlare un attimo, siccome questa è la trasmissione proprio, come dire, adatta, che cade proprio a fagiolo, volevo parlare della famiglia D'Angelli. D'Angelli che sono vecchi giostrai che vengono da una vita ad Atri, e in quel periodo, proprio negli anni 60, ma loro venivano già negli anni 50, verso la fine degli anni 50, ma negli anni 60... praticamente quando loro venivano durante le feste patronali, tipo più Santa Rita che Santa Reparata, perché Santa Rita poi all'epoca era una festa straordinaria, molto sentita soprattutto dai fedeli, diciamo, del circondario, loro non è che si, diciamo, rimanevano solo quei giorni della festa, ma rimanevano oltre. E noi ragazzi all'epoca, diciamo, avevamo fatto amicizia con Carlo D'Angeli, che poi era quello che il più appassionato della famiglia D'Angeli con della musica, e loro, mi ricordo, quando montavano l'autoscontro qualche volta su Alpiano, su a Piazza Marconi, adesso Piazza Duque d'Acquaviva, oppure lì vicino al, prima che costruissero, erano poi degli amplificatori, degli altoparlanti, prima che costruissero l'INPS, lì dove c'è il palazzo dell'INPS adesso, la maternità, loro mettevano lì, e poi avevano un impianto straordinario, e Carlo D'Angeli, siccome lui era un appassionato, ci faceva ascoltare tutti i successi. E mi ricordo quando mise questo brano, mi disse: Vince, mo ti faccio sentire una band strepitosa americana che fanno, diciamo, dei brani dal vivo con un sax straordinario, un chitarrista micidiale, e mi fece sentire questa Too Much Tequila. Guarda, ci fu un giorno che lo mise addirittura 40-50 volte, ma era qualcosa di straordinario. Carlo D'Angeli è stato uno che ad Atri veramente portava dell'ottima musica, soprattutto ad alta qualità, molto fedele, veramente straordinario Carlo. Allora andiamo ad ascoltare il prossimo brano. Vuoi annunciarlo tu, Vince? Ci vuoi parlare? Bobby Darin, dopo ci parliamo. Dream Lover. Every night I hope and pray a dream lover will come my way. A girl to hold in my arms and know the magic of her charms, 'cause I want a girl to call my own. I want a dream lover so I don't have to dream alone. Dream lover, where are you? With a love oh so true, and the hand that I can hold, feel you near as I grow. Girl, to call my own. I want a dream lover so I don't have to dream alone. Someday, I don't know how, I hope she'll hear my plea. Some way, I don't know how, she'll bring her love to me. Dream lover, until I'll go to sleep and dream again. That's the only thing to do till all my lover's dreams come true. 'Cause I want a girl to call my own. I want a dream lover so I don't have to dream alone. Girl, to call my own. I want a dream lover so I don't have to dream alone. Please don't make me dream alone. I beg you, don't make me dream alone. Era Bobby Darin con Dream Lover, quando sono le 20:58 minuti primi, sempre su Radio Cerrano Web con Vince Butterfly. Con il programma I miei primi 45 giri che hanno cambiato la mia vita, ma soprattutto questi 45 giri che veramente, come dicevo prima, hanno determinavano un momento di una situazione. Noi passavamo l'estate ascoltando questi queste hit che arrivavano dall'America. A primo acchito potevano sembrare che le voci erano quasi tutte uguali, mentre invece ognuna aveva una sua particolarità. Bobby Darin, che poi ha avuto un grandissimo successo, è uno di quei cantanti che ha determinato veramente la musica degli anni 50, 60, anche degli anni 70. Ancora oggi è bellissimo ricordarlo e soprattutto risentirli e rituffarsi in quelle atmosfere così straordinarie che erano quegli anni, Carlo. Certo, Vincenzo, per non tutti di questi artisti, perché io poi ho avuto anche la possibilità di approfondire la tua playlist, non tutti questi cantanti riuscivano in un certo senso a sostenere il peso della notorietà e quindi qualcuno si dava un pochettino la pazza gioia, insomma, con l'alcol. Anche il prossimo cantante che ascolteremo ha avuto una vita, ma un po' tutti, diciamo, ma così. Carlo, la musica, come tutte le arti, ha avuto sempre un diversivo, che è stato il diversivo così dello sfasciarsi a tutti i costi. Proprio ieri sera stavo vedendo su Rai 5 la storia di Janis Joplin. Sinceramente, vederla così nuda e cruda veramente ti fa capire che cosa vuol dire poi questi artisti, che sono come quelle lampadine che brillano per un breve periodo, però poi lasciano una traccia indelebile del loro passato. Ma forse anche nell'età, nel periodo che stiamo vivendo un pochettino, la figura di rockstar è cambiata, è molto simile a quella di un manager, di un qualcosa, di un qualcuno che in effetti è morigerato e sa gestirsi, non in tutti i casi. Ma la gestione di un artista non è una cosa facile, perché poi l'artista è, se tu dici artista, una persona è uno che ha un'anima, che ha un suo modo di vedere le cose, che poi corso... È chiaro, Vince, che anche diciamo così, all'interno di certe dinamiche artistiche, dei gruppi, della grande carovana, ci sono tradimenti, ci sono diciamo così, incomprensioni che un pochettino logorano la vita dell'artista. Ma sì, ma Carlo, noi dobbiamo pensare solo una cosa, che i grandi artisti sono delle grandi anime, dei grandi personaggi, e automaticamente quando cominciano ad avere rapporti con gente che magari capiscono che vogliono sfruttare solamente la loro arte, vogliono sfruttare il loro modo di essere per guadagnarci, allora loro cominciano veramente, come dire, ad essere un po' refrattari a quello che è questo tipo di concetto. E l'abbiamo visto e lo vediamo tuttora. Ci sono degli artisti che hanno abbandonato proprio totalmente il management delle case discografiche, si sono aperti i loro studi, fanno i loro lavori in autonomia, poi hanno dei distributori, che oggi poi è molto più semplice, perché distribuire su internet è molto più semplice. E così anche la figura delle case discografiche viene un po' ad essere un po'... Ricordiamo un pochettino anche che certi manager, pensiamo a quelli della RCA, erano certe volte un pochettino che erano persone molto serie, erano un pochettino come dei padri per... Ma sì, la RCA ha avuto, esatto. Specialmente la RCA italiana ha avuto il grande pregio di accudire tutti questi grandi cantautori degli anni 70, da De Gregori, Venditti, Battisti, Cocciante, Locasciulli, diciamo tutti questi autori che poi piano piano si sono autonomizzati. Però è anche vero che c'era proprio una scuola, non c'era quello stress di fare il disco a tutti i costi. Questi musicisti, come si usava in America negli anni 50-60, entravano in studio, creavano, stavano lì, erano assistiti, diciamo che era quasi come un lavoro, però dell'arte. Oggi... Io penso pure che i manager, quelli della RCA, scommettevano molto sulle novità, ecco, nel senso, non aspettavano, come avviene oggi, il consolidarsi di una carriera artistica, insomma, cercavano sempre nuove proposte. Ma la straordinarietà era proprio questa, che c'erano dei talent scout all'epoca, ecco, che giravano per i locali, giravano per per anche per i paesi, per capire se c'era qualche talento nascosto. Oggi non c'è più, perché oggi magari ci sono questi talent scout in televisione che fanno spesso e volentieri. Io non li vedo mai, perché sinceramente mi rendo conto che questi ragazzi, ce ne saranno anche di bravi, però vengono anche un po' così poi delusi dal mondo. Ma anche umiliati certe volte. Ma più che umiliati. Perché vengono... per quanto possa essere bravo un Agnelli o un Tot, Non si può mai, insomma, scoraggiare a quel punto, così come anche avviene per Masterchef, per altri programmi, umiliare il lavoro di una persona che... Oh Carlo, una volta c'era molta più comprensione, si dava la possibilità all'artista di crescere, anche se poi è successo quello che è successo, perché noi non dimentichiamo che ci sono stati degli artisti che magari sono stati delusi e hanno poi fatto degli atti contro se stessi. Non dimentichiamo Luigi Tenco, che è stato uno dei più grandi cantautori ancora oggi in Italia, mai dimenticato, e purtroppo lui si è visto un pochino relegato e ha avuto quel gesto insano. Ecco, poi una persona magari ha un carattere diverso da un'altra, è più fragile. Ma sì, l'artista è quello. L'artista, come si dice sempre, io dico sempre, l'artista vorrebbe vedere realizzati i suoi sogni, che molti che stanno dall'altra parte non riescono a capire. Jerry Lee Lewis, With Bells on Fire. Balls of fire. I let it love what I thought it was funny. You came along and moved me, honey. I've changed my mind. This love is fine. It's just great balls of fire. Kisses the baby. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love you should. You're fine. So kind. Tell this world that you're mine, that you're my nail down and I twiddle my thumb. I'm real on earth, but it sure is fun. Come on, baby, it drives me crazy. And this girl, it's just great balls of fire. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. Ain't you my nail and I twiddle on my thumb. Real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, drive crazy. But in this parade, it's just great balls of fire. Allora Vince, dobbiamo in questo momento suggellare che ricordare che Jerry Lee Lewis è il rock and roll vivente. Sì, lui ha avuto la grande sfortuna agli inizi della carriera di sposarsi con una bambina e questo l'ha portato un po'... Sì, infatti ho letto da qualche parte che aveva intrapreso un tour in Inghilterra. Poi la stampa inglese, sai benissimo, è così un pochettino bacchettona. Anche se fu sconsigliato dal suo manager di portare dietro quella ragazzina, lui invece la volle con sé. Sì, fu scoperto da un giornalista e fu annullato tutto il tour. Ma sì, ma lui voleva dimostrare che in fondo l'amore non ha età, l'amore non ha di questi pregiudizi, insomma. Però in quegli anni l'opinione era quello, insomma, che uno si deve sposare, si deve unire quantomeno con una persona che abbia qualche anno di meno o anche qualche anno in più, e lui diciamo che stravolse questo concetto e si sposò addirittura una ragazzina di 14-15 anni, insomma, anche quando lui era già... Sì, ma ha avuto anche una vita personale familiare, insomma, abbastanza abbastanza complicata. Ma si è sposato 3-4 volte. Ma sì, ma poi l'arte ti comporta questo, perché questi artisti non dobbiamo dimenticare che oggi sono qui e domani sono a 1000 chilometri distante, cioè è una vita convulsa. Noi non dobbiamo mai pensare che la vita dell'artista sia tutta, come dice, rose e fiori, perché purtroppo è così. Ci sono artisti che viaggiano continuamente, e anche la stanchezza psicologica, ma soprattutto i trasferimenti, soprattutto andare su un palco ed essere sempre quello che ti vuole, che vuole il pubblico, essere sempre te stesso, e tu tante volte non reggi e mostri le tue fragilità, insomma, e così ti aiuti un po' con quegli ingredienti che sono sempre innaturali, capito? Bene, adesso ascoltiamo Summertime Blues di Eddie Cochran. Summertime. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use a car to go a ride next Sunday. Oh, well, I didn't go to work, told the boss I was sick. Now you can't use a car 'cause you didn't work a lick. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take 2 weeks, gonna have a fun vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, whoa, to help you, son, but you're too young to vote. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Dobbiamo salutare il nostro amico fedelissimo Eros, che ci segue da Milano. Eros, tu hai capito chi è? No, nota famiglia triana. Sì. Eros. No, molto. Io vorrei, Carlo, un caro saluto a Eros. E anche ad Anna Maria. Io vorrei capire se c'è Carlo da qualche parte. C'è un fuso orario piuttosto massivo. Vorrei capire se Carlo... No, ma lui poi ho visto un pochettino segue il programma in differita, cioè nel senso si collega dopo. Anche bene, perché bene. Su Facebook e sul nostro archivio digitale, sul nostro sito www.radiocerrano.net potrete riascoltare tutte le nostre produzioni. Comunque, Carlo, ritornando a Eddie Cochran, Summertime Blues, anche questo fu un hit straordinario, perché cominciò diciamo ad apparire un po' la parola blues in questi brani, e qui si sente abbastanza quasi presente, capito? E noi quando diciamo sentimmo questo brano, io dissi Summertime Blues, ma magari sarà quella Summertime che io conosco già di George Gershwin, mentre invece era già questo un po' più ritmato, un po' più verso, diciamo che il rock and roll diventava quasi blues. Ed Eddie Cochran, questo brano è addirittura del 1958, insomma. La cosa che mi viene da precisare è che questi artisti erano molto molto molto avanti con gli anni che vivevano, capito? Sì, in effetti sono tutti ricordati, sono stati tutti ricordati nella Rock and Roll Hall of Fame. E pure io, Vincenzo, approfondendo un pochettino, perché poi tu ci dai sempre il là per l'approfondimento, sono quei mostri sacri che poi hanno gettato le basi per il rock. Ma sì, soprattutto vedi, in America già si respirava questa condizione, perché sembra strano, però dietro a questi musicisti c'erano dei grandi diciamo manager, ma soprattutto c'erano delle persone che avevano già intuito quale poteva essere la musica da lì ai prossimi anni. E quando si presentavano questi ragazzi in studio, è vero, Vincenzo, io ho letto i manager americani erano molto attivi sul fronte discografico, sulla ricerca, sulla scoperta dei talenti. Ma soprattutto, vedi, l'America è un mondo totalmente a sé. L'America, anche negli anni 40, 50, c'erano molte radio che trasmettevano musica, soprattutto perché dovevano in certo qual modo arrivare alle lande più sperdute dell'America. E allora loro avevano sempre quel problema di proporre cose nuove e non si lasciava mai, come dire, la porta chiusa a questi artisti, e gli si dava sempre la possibilità di incidere e soprattutto di presentarsi a un pubblico, che poi la pubblicità arrivava attraverso le radio, e la conoscenza di questi artisti veniva in certo qual modo anche santificato dalle radio. E c'era anche la radio, ha avuto sempre un ruolo molto importante negli Stati Uniti. Ma se tu pensi che negli Stati Uniti ogni stato ha una particolarità di musica, ha un modo suo particolare di gestire la propria musica, al di là della musica un po' generale americana, però ogni stato, il country, il blues, il jazz, poi il bluesgrass e poi il gospel, lo spirituals, diciamo sono tutti generi musicali, rock and roll, e ogni stato aveva una sua miriade di radio che trasmettevano magari anche a 10, 15, 20 chilometri, ed era anche un punto di riferimento per gli abitanti. La radio faceva, oltre a un servizio sociale, perché informava la gente, perché magari in certi luoghi non arrivava il giornale, non c'era ancora la televisione, informava la gente di tutto quello che poteva succedere e soprattutto quello che era successo. E in più la musica serviva proprio per dare la speranza, ma soprattutto anche per far ballare quelle fattorie dove magari le famiglie senza la radio. Incredibile. E mi dai anche il là per aprire un piccolo discorso sulla web radio. Pensa, Vincenzo, che mentre da noi siamo agli albori per quanto riguarda la web radio, il 70% degli americani ascolta la radio sul web, sul telefonino, che è una cosa adesso veramente semplicissima, perché ci sono tutte le condizioni, tutte sia tecniche che informatiche, per ascoltare la web radio. Insomma, gli americani sono stati sempre un po' avanti su tutti. Noi continuiamo con la musica, ascoltiamo adesso un brano che ha segnato la storia della musica mondiale. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, just as long as you stand, stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand, stand by me. And allora abbiamo ascoltato Benny King con brano Vince, insomma, che non ha bisogno di presentazioni. Stand by Me. Stand by Me è stato uno dei brani più, come dire, gettonati, e soprattutto uno di quei brani che ha segnato veramente l'inizio del soul, e addirittura poi un brano cantato in tutte le lingue del mondo. Addirittura da noi Adriano Celentano lo chiamò Pregherò e ebbe un grande successo. E volevo un attimo, Carlo, aprire una piccola parentesi. Tutti questi brani che noi abbiamo ascoltato, diciamo, hanno avuto tutta una versione italiana e anche nei paesi, in Francia, in Germania, cioè hanno avuto tutta una versione nei paesi nella loro lingua, soprattutto perché l'America aveva, diciamo, quel crogiolo straordinario di talenti che poi, diciamo, non erano altro che l'espressione delle varie razze che avevano in certo qual modo conquistato l'America, dagli italiani agli irlandesi, agli inglesi, ai russi, ai polacchi, ai francesi, e, diciamo, ai portoghesi. Era, diciamo così, anche un collante per la classe sociale americana. Ma sì, diciamo che l'America ha avuto questo grande pregio di aprire un po' le porte a tutti, cose che magari non sta facendo adesso, perché magari adesso c'è un altro tipo di concetto del, diciamo, dell'emigrazione. Però l'America, nonostante tutti i suoi difetti, nei primi del Novecento ha avuto l'opportunità di ospitare tanta di quella gente che magari, tra qualcuno che era meno, diciamo, come dire, bravo, hanno avuto dei grandi talenti. Non dimentichiamo che dall'Italia sono partiti tanti emigranti che poi in America si sono fatti valere. Insomma, se noi pensiamo che nella famosa battaglia, diciamo, americana con gli indiani, l'ultima battaglia del generale Custer, il trombettista era italiano, che suonava la carica era italiano. Dunque, che cosa vogliamo dire, Carlo? Anche quella era musica, eh? Esatto, Vincenzo, adesso c'è da presentare un mostro sacro. Sì, un mostro sacro, e soprattutto in questo brano poi parlerò del lavoro che fa questo grande chitarrista che veramente ha dato veramente il sound vero al grande re, al king, al Elvis Presley. Allora Vince, su questo brano di Elvis Presley abbiamo scoperto anche che ci sta seguendo Carl Bartelboom. Carlo, dove sei? Batti un colpo. Ci segui? Ci segui? Ah, stavamo giusto parlando di te prima. Stavamo parlando di te. Facci capire dove stai, Carlo. Grande Carlo. Bene, sentiamo la tua mancanza, soprattutto mica per qualche cosa, per l'altra parte del programma. Per le tue elucubrazioni sulla politica, sul sociale, le tue disquisizioni con il tuo modo di parlare forbitissimo, soprattutto con le tue novità, come dire, con le notizie nuove, le news. Ma salutiamo anche Piero e Domenico. Bene. Carlo, volevo un attimo parlare di questo brano di That's Alright Mama di Elvis Presley. E praticamente, diciamo, mi ricordo quando una delle prime volte che l'ho ascoltato, avendo io le prime diciamo nozioni rudimentali della chitarra, non riuscivo a capire che cosa facesse questo chitarrista, che poi piano piano l'ho scoperto, il grande Scotty Moore. Lui suonava addirittura con una chitarra semiacustica, una L5 dei primi anni 50, con i pick-up, addirittura i P90, i famosi P90, e aveva questo suono particolare che ancora oggi diciamo ci ha deliziato fino all'ultimo, che lui è andato, diciamo, poi a fare altre cose, insomma. Ma lui ha determinato proprio il sound speciale di Elvis Presley, e difatti Elvis Presley, quando lui, Scotty Moore, ha deciso di non suonare più nella sua band, diciamo che ne ha risentito, perché lui era quello che determinava in certo qual modo proprio il vero sound dei primi brani di Elvis Presley. Immaginate che questa incisione del 1954. Allora continuiamo, vi ricordiamo che siete su Radio Cerrano Web, ma stiamo trasmettendo, Vince, anche su un'altra radio online, che è www.radiotriweb.caster.fm, che sta ripetendo il nostro segnale, diciamo così, segnale tra virgolette, che è anche un ottimo, un bellissimo sito. Passiamo adesso al prossimo brano. Questo è un brano, caro Carlo, che veramente io ci sono cresciuto e l'avrò suonato migliaia di volte. E ogni volta che andavo a suonare mi ricordo che mi chiedevano questo brano, perché è stato ed è tuttora una hits straordinaria per quanto riguarda la chitarra elettrica. Mm-hmm. be playing some of that bounce off the wall music. The Shadow Apache. E niente Carlo, io guarda, questo è un brano, come dire, classico per i chitarristi. E mi ricordo da ragazzo, quando ho cominciato a suonare, mi dicevano: se non sai fare Apache non sei un chitarrista. E la cosa più straordinaria è che questo brano noi lo sentivamo sempre al jukebox. Poi nelle feste dell'unità dell'epoca, anche nelle feste comandate, arrivava da Teramo l'orchestra di Nino Dale. E ci fu un periodo, il primo periodo, che Nino Dale ingaggiò Ivan Graziani alla chitarra. E prima che Ivan diventasse poi quel grande cantautore che è stato, che è tuttora, perché io, diciamo, a parte Ivan l'ho conosciuto, abbiamo avuto anche dei piccoli scambi chitarristici, ma Ivan, prima che cominciasse a cantare, ad essere quello che è stato, e lui si dilettava a fare questi brani degli Shadows, e quando veniva ad Atri ad esibirsi insieme all'orchestra di Nino Dale and Modernist, ci faceva ascoltare questi brani, Apache, FBI, e diciamo tutti questi brani che erano i famosi successi degli Shadows. E poi Ivan è stato sempre un, come dire, un talento straordinario con la chitarra, e faceva anche, come dire, un po' di show con questi brani, aggiungendoci anche delle note sue particolari, insomma. E noi stavamo lì sotto al palco a gustarci queste esibizioni, come dire. E ad Atri di solito dove avvenivano questi concerti? Questi concerti avvenivano di solito nella piazza del Duomo. Si aggiustava un palco che non era un grande palco, era un palco sempre molto, diciamo, molto contenuto, e diciamo l'orchestra di Nino Dale era l'orchestra che più, diciamo, frequentava proprio la nostra piazza. E all'epoca, diciamo, c'era la migliore orchestra di Nino Dale, con diciamo i musicisti che ha avuto poi per tanti anni. E, diciamo, Ivan Graziani era, diciamo, quasi, diciamo, era il più giovane, era la punta di diamante di questa orchestra, era quello che in certo qual modo diciamo attirava i ragazzi giovani proprio per la sua estrosità con la chitarra. E poi lui, insomma, ha fatto anche il turnista negli studi della RCA. Sì, poi lui Ivan partì, andò all'università. Non dimentichiamo che Ivan è stato anche un grande disegnatore di fumetti. Lui era diplomato allo studio d'arte, diciamo, è una mente straordinaria, insomma. Oltre però a essere... Vince tuttora non per noi è un grande, sia ben chiaro, per me, per Vince non è considerato come dovrebbe essere. Vedi Carlo, la considerazione che noi abbiamo di certe persone rimane quello che, diciamo, ti sei creato nel corso del tempo, della conoscenza. Ivan, secondo me, è stato uno di quei grandi cantautori sempre poco considerati, ma se lo vai ad ascoltare oggi, veramente ti rendi conto della grandezza, non solo della sua voce particolare, ma anche del suo chitarrismo. Io mi ricordo quella volta che venne qui ad Atri a fare quel concerto con la sua band, e veramente fece al campo sportivo. Sì, e fece un concerto straordinario. Ma Ivan anzi, vi apro una piccola parentesi: in quel concerto ci fu, diciamo così, un piccolo episodio, un simpatico episodio da parte sua. Prese un po' in giro James Brown con la chitarra, e dicendo che i pezzi di James Brown sono tutti uguali. Vabbè, ma lui era così. Lui diciamo che era un teramano particolare, e c'è anche una bellissima gag che lui fa di Phil Collins quando gli rubò quei tre accordi. È vero, sì. Ma Ivan era fatto così. Io mi ricordo una delle ultime volte che lo incontrai, perché ma tu pensi veramente che Phil Collins sì, abbia sì ci sono delle sì. dispute, però in effetti è proprio identico. È proprio identico. C'è quella, quella canzone Agnese che è proprio sputata, sì. proprio gli accordi. Il tuo brano preferito di Ivan Graziani? Ma per me Fuoco sulla collina. Fuoco sulla collina, per me I lupi. Non so, proprio mi emoziona. Mi fa pensare tantissimo alla nostra, alle nostre montagne. Ma lui ha sempre cantato. Se senti Fuoco sulla collina, ti rendi conto che stai al cospetto del Gran Sasso, perché poi lui ha fatto anche una canzone dedicata al Gran Sasso. Esatto, sì. Però se tu senti Ivan Graziani, lo senti sempre cantare l'Abruzzo, anche se in certo qual modo lui canta tante altre cose. Ma nelle sue canzoni più viscerali senti cantare proprio l'Abruzzo. Allora Vince, andiamo avanti con la musica. Adesso ascoltiamo un pezzo di Pat Boone. Ma questo è veramente un qualcosa che ci fece ballare per tanto tempo. Speedy Gonzales. In old Mexico I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly I heard the plaintive cry of a young Mexican girl. You better come home, Speedy Gonzales, away from Tannery Row. Stop all of your drinking with that floozy name float. Come on home to your adobe and slap some mud on the wall. The roof is leaking like a strainer. There's loads of roaches in the hall. Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, how come you leave me all alone? Hey Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili peppers. Your dog is gonna have a puppy, and we're running out of coal. No enchiladas in the icebox, and the television's broke. I saw some lipstick on your sweatshirt, I smell some perfume in your ear. Well, if you're gonna keep on messing, don't bring your business back here. Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, how come you leave me all alone? Hey Rosita, come quick. Down at the cantina, they're giving green stamps with tequila. Allora Vince, io vabbè, voglio dire una cosina su questo brano che mi ha incuriosito, perché ha avuto successo prima di tutto in Germania. Ma sì, questo è un in Germania, in Olanda, in Belgio e in Italia, e poi insomma è arrivato primissimi posti. Ma diciamo che Pat Boone era il cantante, il bel cantante, bel ragazzo, bravo, buono, diciamo lui si presentava sempre come un buon papà di famiglia, capito? Sempre, cosa che piace molto, sì, piace molto quell'ambiente tipico, sì. Sì. E poi questa canzone che ha dello straordinario, perché unisce un po' quelle vocine particolari con questo twist che allora avanza piano piano ed è un ballabile straordinario. Speedy Gonzales, Pat Boone. E adesso ascoltiamo un brano di Petula Clark. Petula Clark è un'altra grande cantante, anche poco conosciuta, però straordinaria, perché con la sua vocina ha fatto delle bellissime melodie. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown. Things will be great when you're downtown. No finer place for sure. Downtown. Everything's waiting for you. Downtown. Don't hang around and let your problems surround you. Downtown, maybe you know some little places to go to where they never close. Downtown, just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again, the light's so much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares. Insomma, Vince, questi sono i brani della tua gioventù. Insomma. Ma guarda, Carlo, ti posso dire, ascoltandoli di nuovo adesso, dopo tanto tempo, ma io ogni tanto mi tuffo in queste canzoni proprio per ricordare quei tempi. L'aspetto più straordinario che danno queste canzoni è questa voglia di libertà, questa voglia di piacevolezza, soprattutto questa voglia di essere positivi. Queste canzoni non erano mai scontate, anche ascoltandole più volte ti imprimevano quel senso. C'hanno poi quest'aria, diciamo così. Ma quel senso di fiducia, sogno, così. Sì. Ti portavano proprio ad ascoltarle con tenerezza, con semplicità, ma soprattutto a me mi hanno regalato proprio quel senso di sognare, di chiudere gli occhi e di volare altrove. Questa era, secondo me, proprio era la musica degli anni 60. E ti dico sinceramente, tanti mi chiedono adesso, magari incontrando gente, magari qualcuno della nostra età, qualcuno anche più giovane, dice, mi domandano, ma Vince, ma come si viveva in quegli anni lì? Quegli anni lì c'era la spensieratezza, c'era anche la voglia di andare oltre, ma soprattutto c'era la speranza che qualcosa, diciamo, dovesse succedere, ma sempre in positivo. Ecco, Vince, tu sei anche molto attivo su un social, su Facebook, dove praticamente quello che dici in radio poi trascrivi su Facebook, riporti questo, insomma, questa tua voglia di stare con gli altri, insomma, il tuo modo di essere positivo, di essere vero anche. Guarda, Carlo, io ti dico semplicemente una cosa, che hai molti follower, molte persone. Sì, sì, ma io ho scoperto una cosa, che ultimamente la rete Facebook, il social Facebook, che io, diciamo, frequento un po' di più, è diventato veramente un qualcosa di di strano, perché si continua sempre a polemizzare, a prendere per vero delle cose che non sono vere. E ho deciso da un po' di tempo a questa parte di raccontare come ho fatto con questo brano che andremo a sentire, il prossimo brano, ma anche con altre cose che magari mi succedono giornalmente, e poi io le condisco di umori, di sensazioni, di ricordi. Perché se Facebook fosse adoperato sinceramente nel raccontarsi, nel raccontare cose che sono nella nostra storia, nella nostra memoria storica, probabilmente sarebbe molto più bello, più frequentabile, e soprattutto darebbe meno spazio alle polemiche sterili. Sì, ormai è diventato un luogo... Sì, come ieri sera, non ho visto la partita, però stamattina, aprendo Facebook, ho letto del soliti gesto, insulti. Del gesto di Mourinho. Allora i juventini si sono sentiti un po', come dire, un po' offesi. Allora mi è venuto di scrivere, poi non l'ho fatto, ma lo dico in diretta: ma Mourinho lo conoscete adesso? Mourinho è stato sempre così, è stato certo. Uno strafottente, una persona che ha sempre, come dire, quando ha vinto ha sempre esternato la sua, diciamo, la sua prepotenza. Quando ha perso, si è messo la coda tra le gambe e se n'è andato via. Comunque, a proposito di questo brano, io ho raccontato una bellissima storia l'altro giorno, perché questo brano l'ho ascoltato attraverso una finestra mentre ritornavo a casa un giorno d'estate, e poi il giorno dopo mi sono recato a casa di questo che poi è diventato un mentore della mia carriera musicale, Ammino Spesialetti, grande batterista e soprattutto grande percussionista, che ha girato il mondo con la sua batteria, con tanti musicisti internazionali, suonati in tutte le televisioni del mondo. E lui mi fece ascoltare questo brano, e io l'altro giorno ho voluto, come dire, rifare questo brano. Ho fatto un video e l'ho fatto un po' a modo mio, questo brano, come l'ho sempre fatto, l'avrò suonato centinaia e centinaia di volte, però ricordando questo particolare ho voluto anche dare, come dire, spazio a un ricordo, a un qualcosa che quando ti colpisce non ti abbandona mai. Maria Elena, Los Indios Tabajaras. Thank you. Los Indios Tabayaras. Mi sei quante volte avrai suonato questo brano? Beh, nei locali, io dico, nelle orchestre. Io dico solamente che questo è uno di quei brani che, se avessi un euro ogni volta che l'ho suonato, sarei quasi un milionario. Ma volevo salutare, anzi non abbiamo il microfono, abbiamo i microfoni appesi appunto per evitare queste botte che poi ogni tanto avvengono, però Patricia Marquez, che ci segue dal Sud America, e Dora Colancecco, Dora, la nostra Dora che invece è della zona, della nostra area metropolitana. Prego, Vince. Beh, niente, Carlo, tu mi dicevi prima di Mino Specialetti. Mino Specialetti è stato anche nell'orchestra di Perez Prado per un periodo. Lui, diciamo, ecco, questo io non lo sapevo. Beh, tante cose non si sanno di Mino. Poi Mino è stato uno dei grandi batteristi che ha suonato per tanto tempo con Nino Dale, quando Nino Dale faceva le sue tournée in Africa, a Beirut, a Marrakesh e in tutto il Medio Oriente. Diciamo che Mino... Sbaglio, oppure in quei tempi c'era veramente un mercato per suonare, vero? Ma allora diciamo che prevaleva molto, come dire, la professionalità. Oggi purtroppo, come dire, tanti suonano, si accontentano di quello che offre, come dire, il mercato. Tanti vengono un po', come dire, esclusi. Poi la musica qui in Italia vive un momento un po' strano, un po' particolare. Quando il mercato è purtroppo è predominio di tanti che poi magari fanno altri lavori, allora i cachet si abbassano, la qualità si abbassa e la gente magari frequenta poco soprattutto i locali, e i musicisti, quelli bravi, tante volte per anche una questione di dignità, purtroppo rifiutano e stanno a casa. Ma questo è veramente, Vince, impossibile lavorare in questi periodi. Ma no, ma diciamo, ci sarebbe il lavoro per tutti, solamente che ci dovrebbe essere un controllo molto più, diciamo, radicale. Carlo, se io mi mettessi domattina a fare l'idraulico o il falegname, farei ridere, invece tanti... Ecco, poi è anche vero che certe cose, certe serate vanno fatte anche per un certo tipo di relazioni che uno ha, magari se non è un musicista bravissimo. Ma c'era una bellissima frase che si diceva tanto tempo fa e si dice tuttora, che è attuale. Quando il padrone del locale vai a cercare una serata, ti chiede, la prima cosa che ti chiede, non ti chiede che suoni, che genere fai, ti chiede quanta gente mi porti. E che è la cosa più brutta, perché per un musicista chiedere quanta gente mi porta significa, vuol dire che io non faccio più il musicista, faccio il PR, dovrei avere un pullman a disposizione per caricare la gente per venirmi a sentire suonare. E questa è la cosa brutta. Poi chiaramente esistono i professionisti che hanno un loro come si dice, Vince. Anche per quanto riguarda i DJ set, il DJ professionista, adesso diciamo quelli che insomma hanno iniziato negli anni 80, che hanno sicuramente molta più preparazione musicale dei DJ che si propongono adesso. Guarda, Carlo, come si dice, il professionista, il DJ professionista o il musicista professionista, come si dice, ha sempre quel brano che sa toccare le corde. Allora, dell'anima. Carlo, e questa è la differenza. Io ti dico una cosa: io ho suonato per tanto tempo da ragazzo, da giovane, da 20 anni fino a 20, 24 anni, 25 anni, ho suonato fuori all'estero. E più delle volte mi sono incontrato durante le mie tournée musicali nei locali dove, oltre alla band, c'era anche il DJ. Ho conosciuto dei DJ straordinari, ma che erano dei DJ veramente votati. Tu immagina che un giorno ho conosciuto, e suonavo nello stesso locale per parecchi mesi, abbiamo suonato insieme. Questo è il caso di dire abbiamo suonato insieme, perché poi lui faceva un set e noi ne facevamo un altro, noi dal vivo e lui con i dischi. Lui metteva proprio i dischi, ma questo era proprio veramente un profondo conoscitore della musica. Aveva centinaia e centinaia di dischi dietro di sé. Lui andava in giro con una vecchia Cadillac, con il cofano pieno di LP. lui sapeva dalla A alla Z della musica americana dagli anni 40 fino a quel periodo che vivevamo. Dunque il DJ era una persona che era quasi un musicista per la sua conoscenza. È chiaro che faceva suonare i dischi e io da lui ho sentito delle cose così belle, straordinarie, che veramente mi solo chi ha un bagaglio culturale musicale oggi purtroppo imponente, sì, grande, può fare. Oggi purtroppo c'è gente che si mette lì, si compra l'attrezzatura, sì, va esatto, su internet, scarica i brani, quello e quell'altro. Va lì, reggaeton adesso, reggaeton. Va quello, si documenta sul programma, sui programmi che vanno di più. Difatti tu quando senti dei DJ di oggi, le scalette sono quasi tutte uguali. Nessuno... Guarda, ti posso dire una cosa. Io do ancora molto, ma molta, molta fiducia, soprattutto molto rispetto a uno degli ultimi DJ che operano nella zona nostra, Paolo Di Giacinto. Grande che è Paolo. Un vecchio DJ che Paolo conosce veramente la musica, ma conosce soprattutto i brani e soprattutto ha un feeling straordinario con tutta la musica dagli anni 60 fino a oggi. Sì, esatto, come si dice, ripeto, è il professionista che poi con quel brano fa esplodere la serata. Sì, soprattutto Paolo. È proprio quello che si dice. Quando programma lui la musica, è sempre un qualcosa di non preordinato. Lui c'ha sempre quel lasso nella manica. È quello che fa la differenza. Che te lo fa, come diciamo noi, che te lo fa calare nel momento giusto. E che anche può, voglio dire, può anche incuriosire il giovane, perché poi un bel brano, anche se vecchio, tocca sempre le corde dell'anima. È quello che questi ragazzini che ormai vediamo sulle console. Carlo, cosa stiamo facendo noi in questo programma? Stiamo risvegliando un po' la coscienza di tanti per portarli ad ascoltare della musica straordinaria. Nicky Nelson, I Will Follow You, 1963. I will follow you. Baby. See you later, alligator. Allora Vince, questa sera è venuto fuori veramente un bel programma frizzante, poi molto spontaneo come noi, come sempre, che facciamo un pochettino tutto a braccio. Ma sì, soprattutto Carlo, noi mettiamo la nostra reale spontaneità in questo programma, ma la cosa più bella è che riusciamo soprattutto a passare un paio d'ore in tranquillità, e questo anche l'assenza del nostro guru Butterbloom, il nostro spin doctor, che lui se la sta godendo, e lui no, mica, che mica, traccia, mica ci dice dove sta questo, non ce lo dice, ci sta guardando però sì. Chi lo sa che cosa ci racconterà, cosa ci racconterà. Ha detto che ci avrebbe telefonato in diretta al programma, ma evidentemente lì nella giungla le comunicazioni non sono al meglio. Allora, come stavamo dicendo prima, Carlo, tu hai identificato questa ultima canzone di Ricky Nelson con I Will Follow You con una versione italiana. Io ti dico subito che tutte le canzoni che abbiamo questa sera programmato, e anche le altre volte, sono state riprese, sono state sempre rifatte in una versione italiana, e noi quanto prima facciamo uno special sulle cover italiane di questi brani. Allora amici, abbiamo trascorso veramente quasi un'ora e mezza in nostra e vostra compagnia. Noi ci stiamo divertendo tantissimo con questa radio, ci ha ridato adrenalina, ci ha ridato voglia di fare, tutto il vecchio gruppo di delle radio degli anni 80 ormai si sta aggregando. Se qualcuno vuole venire qui in radio a fare il programma con noi, o da solo, abbiamo bisogno un pochettino del vostro apporto. Anche ragazze di qualsiasi età sarete i benvenuti, le benvenute. Ma sì, soprattutto perché la radio è un mezzo che bisogna riscoprire, e bisogna anche dare spazio a quelle che sono le illusioni, perché la radio illude. E io mi ricordo da bambino, quando ascoltavo la radio, riuscivo ad immaginare che cosa c'era dall'altra parte, e questa è la cosa straordinaria. Oggi vai in televisione e vedi, non lo so, le varie showgirl, oppure vedi queste donne guru che fanno dei programmi per indirizzare questi ragazzi a queste professioni, vedi il cuoco di turno, vedi il giornalista di turno che si fa passare per artista perché con i contratti che ricevono altrimenti non avrebbero una propria identità. Invece la radio è quello che ti mette di fronte all'immaginazione, ti fa immaginare chi ci sta dall'altra parte, e tu non sai mai, non conosci mai il viso di quello che sta trasmettendo. Per l'amor di Dio, noi non abbiamo questa velleità, perché con questa diretta ci facciamo anche vedere, ci mettiamo anche la faccia. Ci mettiamo anche la faccia. Ma ce la mettiamo molto, ma molto onestamente, perché stiamo qui ad esplorare ulteriormente la nostra passione e soprattutto la nostra dedizione verso la musica. Allora noi vi salutiamo. Vince però vi dà appuntamento alla prossima settimana. A giovedì prossimo, giovedì con una nuova scaletta. Tornerà e con nuovi Carlo brani. Bartelboom. Io vi aspetto martedì con mio fratello, my brother, con 80 Special, un programma dedicato alla musica degli anni 80, molto molto commerciale. Un saluto a tutti, un abbraccio a voi tutti. Grazie da Radio Cerrano Web, e buonanotte a tutti, grazie di essere stati con noi. She told me, nearly made me lose my head. When I thought